vent'anni non conoscevo il tantra. A vent'anni non avevo pazienza. La mia mano o quella di un'altra. A vent'anni non faceva differenza. A vent'anni pensi una va e una viene. A vent'anni hai fuoco nelle vene. Provi tutto e nulla ti trattiene. A vent'anni ragioni con il pene. Ma a 40 cominci a averne abbastanza. Cerchi una relazione di sostanza che si regga sulla lunga distanza, senza voglia di scappare dalla stanza. Il tuo nome, il tuo nome è un mantra. Sulle mie labbra ermetica poesia. Lo ripeto e vado avanti a oltranza. Dei vent'anni ho poca nostalgia. Prendo il ritmo e tengo la giusta distanza. A vent'anni avrei sbandato in galleria. Sbarbatelli, non temo la concorrenza. A 40 si compensa in fantasia. Serve a poco possedere la potenza. Se non sai dosare la tua batteria. Il tuo nome, il tuo nome è un mantra. Vent'anni lo fai con più frequenza. La durata invece è pura fantascienza. Non fai in tempo neanche a intravederle il tanga. Che hai bisogno di cambiarti la mutanda. A vent'anni vuoi mostrarne già 40. Chiedi whisky ma nel frigo tieni Fanta. Per sembrare uno di mondo un po' più fico. Ti fai baffi anche se ti stanno da schifo. Ma a 40 hai dimostrato già abbastanza. Te ne freghi anche di un filo di pancia. La conquisti dandole giusta importanza. Non fai più la guerra all'acne alla bilancia. Il tuo nome, il tuo nome è un mantra. Sulle mie labbra ermetica poesia. Lo ripeto e vado avanti a oltranza. Dei vent'anni ho poca nostalgia. Prendo il ritmo e tengo la giusta distanza. A vent'anni avrei sbandato in galleria. Sbarbatelli, non temo la concorrenza. A 40 si compensa in fantasia. Serve a poco possedere la potenza. Se non sai dosare la tua batteria.